America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da Roma al seguito del presidente Obama, Mario Platero. Il presidente americano fa il suo ingresso nel Palazzo Apostolico. Il saluto del Papa, il primo incontro fra i due uomini più potenti della Terra, con Obama che prima di arrivare aveva chiarito di voler partecipare a questa visita con umiltà per ascoltare il messaggio del Pontefice. Beh, del resto ieri qui ad America 24 vi avevo dato le anticipazioni che oggi ha confermato la Casa Bianca. Obama e il Papa si trovano in sintonia sui messaggi che riguardano la povertà, l'immigrazione. Certamente, e questo dobbiamo dirlo, sono meno d'accordo su temi come matrimonio dei gay, ricerca sulle cellule staminali. Resta il fatto che il messaggio centrale di questo incontro è la lotta alla sperequazione. Insieme, a braccetto, per combatterla, beh, non soltanto in America, non soltanto in Italia, nel mondo. I'm grateful to President Obama for inviting me. Passaggio dal Vaticano al Quirinale. In questo momento il presidente è ancora ospite di Giorgio Napolitano, del presidente della Repubblica. Come mi aveva detto un alto funzionario al seguito, è stato Barack Obama a voler avere un incontro privato con Giorgio Napolitano per rinnovare, queste le parole testuali che mi sono state dette, per rinnovare un vecchio rapporto a cui il presidente tiene moltissimo. Bene, tra circa 45 minuti ci sarà l'incontro con Matteo Renzi, importante perché è la prima volta che i due si vedranno a quattro occhi per parlare di lavoro, del futuro, del da farsi. E beh, e qui la Casa Bianca dice, beh, è lì, è in quel momento che davvero Barack Obama e Matteo Renzi potranno capire se possono trovare un'intesa su cui procedere. Our idea is exactly that: change faces and change ways. Le premesse, giovinezza, entusiasmo, rottura con il passato, beh, ci sono tutte. E Barack Obama vede in fondo in Matteo Renzi uno che era giovane come lui quando ha cominciato a guidare gli Stati Uniti d'America. Renzi, che invece comincia a guidare l'Italia, gli ha anche fatto una battuta. Gli ha detto, quando io ho cominciato i miei capelli erano neri come i tuoi. Dunque lo spirito c'è, le premesse ci sono per un abbraccio fra Matteo Renzi e Barack Obama, un abbraccio simbolico ovviamente. Una differenza però c'è, lo stimolo all'economia deve essere totale, riguardare anche il mondo aziendale, l'intero comparto economico. Barack Obama l'ha fatto subito, ha introdotto degli stimoli per le aziende, lo ricorderete, ha dato dei capitali alle grandi dell'auto a Detroit, alla Chrysler, alla General Motors per salvarle, ha passato degli incentivi sia fiscali che per gli investimenti, ha creato, continua a creare, lo sta facendo adesso, dei poli per il rilancio del settore manifatturiero. Il settore manifatturiero ha visto un rinascimento sotto la presidenza di Barack Obama. Pensate, sono stati creati 700.000 posti di lavoro, il presidente ha incoraggiato le aziende a tornare in America, ha dato incentivi e finanziamenti per la rilocalizzazione e ha avuto anche successo. Ecco, ovviamente Matteo Renzi ha appena cominciato, ma la differenza c'è perché ancora non abbiamo avuto notizie in questa direzione. Non è cosa da poco, perché il coinvolgere tutti potrebbe fare la differenza fra crescita e stagnazione. Sappiamo che Obama chiede all'Europa e dunque a Renzi di abbandonare l'austerità di ispirazione tedesca, sappiamo anche quanta apertura e disponibilità ci sia nei confronti di Palazzo Chigi, della simpatia spontanea nata fra il presidente americano e Renzi già nella prima telefonata, come vi ho raccontato ieri, premesse appunto per un successo sul piano personale dell'incontro di oggi. Ma il governo italiano non avrà un assegno in bianco. L'alleanza, l'amicizia, le radici comuni fanno parte della solita retorica scontata che sentiamo sempre nelle comunicazioni ufficiali della Casa Bianca, ma la sostanza me l'ha esposta Caitlin Hayden del Consiglio per la Sicurezza Nazionale. Testuali parole. Con Renzi il presidente vuole discutere della cooperazione nel settore difesa e dei suoi sforzi per rinnovare l'economia italiana, rilanciare la crescita e nuovi posti di lavoro. Beh, cooperazione settore difesa, forse questo potrebbe già essere il primo ostacolo. La cosa più forte che ha detto ieri Obama dopo gli incontri ai quartieri generali della NATO a Bruxelles è che l'America non può difendere l'Europa da sola, aggiunto anche con la Gran Bretagna. La crisi ucraina, ha detto Obama, dimostra che i bilanci per la difesa di tutti i paesi europei devono essere rafforzati. E come dobbiamo interpretarlo questo messaggio di Obama? Un riferimento forse al nostro taglio di acquisti degli F-35? Possibile, ma non credo che Obama venga qui a chiedere a Renzi di comprare degli aerei. E d'altra parte Renzi potrà controbattere che rispetto agli alleati abbiamo contribuito con alcune delle più importanti missioni di pace, dal Libano all'Afghanistan alla Bosnia, però il nostro Presidente del Consiglio dovrà avere conti precisi, i dettagli, le spese, perché con Obama le parole non bastano. Ecco, sul piano economico il Presidente americano, chiaro, bisogna creare lavoro, questo vuole l'America. La crescita c'è se si crea occupazione, e l'occupazione come la si crea? Se le aziende assumono, e le aziende assumono, beh, quando il costo del lavoro diminuisce, sul cuneo fiscale si è fatto ancora molto poco e non ci sono stati ancora dal nostro governo incentivi fiscali per l'investimento, provvedimenti perché le aziende abbiano accesso a un basso costo dell'energia, tra l'altro dell'energia di nuovo ieri ha parlato Obama, sarà anche uno dei temi centrali che discuteranno oggi con Renzi, perché con i rischi a Oriente l'America si è proposta ieri e si proporrà oggi come fonte energetica alternativa. Incoraggerà Obama Renzi a fare esplorazioni anche nel nostro territorio per aumentare la nostra produzione energetica. Dunque, se come sappiamo Renzi ammira Obama, beh, io direi che lo faccia fino in fondo, che gli dica già oggi, dopo aver studiato le sue iniziative, di essere pronto a riprodurle in Italia. Devo dire questo nel suo stesso interesse, oltre che in quello del paese. Da Roma è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.